che non siamo mai soli, non siamo mai soli. Non si può scegliere per chi perdere la testa. T'arriva all'improvviso come in estate una tempesta. Lanci una moneta e scegli testo croce, ma è la casualità che questa volta alza la voce. Puoi scommetterci che è un gioco d'azzardo. Se Cupido alle spalle scocca il suo dardo su una siciliana doc dal sangue caliente, che sfodera il sorriso come un'arma disarmante. Per un veneto doc che vive pop, rime inebrianti come calici di Don Perignon. Occhi solo per lei, il cuore brucia a mille. Ardi dentro, ma fa attenzione alle scintille. Falla felice, falla sentire pronta. Farla felice dalla mattina finché il sole non tramonta. Al chiar di luna dimostragli chi conta. Non trascurare alcun dettaglio, lascia la tua impronta. Qualcosa di vecchio, nuovo e regalato. Qualcosa di azzurro, qualcosa di pestato. Scaramanzie che accompagnano da sempre il rito. Ora siete una coppia e ne fa fede l'anello al dito. Nella buona e nella cattiva sorte, calici al cielo suonano come le note di un pianoforte. Uniti per la vita, finché morte non vi separi. Per tutti gli altri meglio correre ai ripari. So che non siamo mai soli, tutti i giorni della mia vita, finché pensi a me. È la storia di chi la storia la cerca. È il passato che mi insegna che ogni lasciata è persa. Sono mille tentativi, ma ogni donna è diversa. Ma io sono ancora qui e la mia porta è sempre aperta. Ogni volta è un'emozione, ogni volta il cuore batte. Il destino che è crudele e guarda dall'altra parte. Qualche un giorno io lo so, tu lo sai, ci incontreremo. Ovunque tu sarai, siamo sotto lo stesso cielo. E poi quasi per caso una sera giravo con Ness. Mi ritrovai davanti a te, occhi dentro gli occhi, parole senza controllo. Poi il crollo, eri ciò che cercavo per me. That's the way it is, come incendi. Il vecchio Petrus che scompare, svanisce come un delay. Tu sei ciò che crei, hey. Il mio sogno si realizza e lo porto avanti con lei. Qualcosa di vecchio, nuovo e regalato. Qualcosa di azzurro, qualcosa di pestato. Scaramanzie che accompagnano da sempre il rito. Ora siete una coppia e ne fa fede l'anello al dito. Nella buona e nella cattiva sorte, calici al cielo suonano come le note di un pianoforte. Uniti per la vita, finché morte non vi separi. Per tutti gli altri meglio correre ai ripari. Io so che non siamo mai soli, tutti i giorni della mia vita, finché pensi a me. Il tempo mi ha lasciata solo in un momento. Minuti si allungavano, il giorno è infinito. Infine quel ti amo nascosto dietro un libro. Cinque quelle lettere che misero l'accento. Day by day, camminando, andammo sempre avanti, mai rallentando. Sguardo che t'avvolge come un fiume in piena. E so che lo farà per una vita intera. Fine di sta storia, inizio del per sempre, di cui la fede è simbolo nei secoli perenne. Segno dell'impegno, del mio voto. Non saremo in due, ma un individuo solo, che va verso l'ignoto, con il futuro in mano. Armati di emozioni, di calore che infondiamo. Ansiosa di vederti ogni sera aprire la porta. Ciao marito mio, ti sorrido un'altra volta. Io sposo giovani coppie ogni giorno, ma sono preoccupato per loro. E cerco anche di scandire bene le promesse, nel bene e nel male, di esserti sempre fedele, in salute e in malattia. E posso solo sperare che ascoltino veramente quelle parole. Ma come possono farlo? Loro vivono in una favola, niente li può toccare. Ma per voi due, non sono preoccupato.